12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. La puntata di oggi è dedicata al tema dell'apprendistato, che secondo la riforma del lavoro pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 3 luglio 2012 sarà il contratto per eccellenza attivato ad ogni giovane che si appresta ad entrare per la prima volta nel mondo del lavoro. Cercheremo di capire cosa dice appunto la riforma riguardo all'apprendistato e proveremo a capire anche che cos'è nel dettaglio questo tipo di contratto insieme a Raffaella Toniolo, psicologa del lavoro. Partendo prima col dare un po' di dati regionali, dalla ricerca a cura di Veneto Lavoro a fine 2011, intitolata L'apprendistato in Veneto, consistenza, evoluzione, tassi di trasformazione, risulta che a metà 2011 gli apprendisti in Veneto erano circa 60.000 e che sono diminuiti i contratti attivati per gli under 20, aumentati quelli per gli over 24, mentre sono rimasti stabili i contratti attivati per i giovani in fascia d'età tra i 20 e i 24 anni. Sempre secondo la ricerca, circa un terzo di quanti vengono assunti come apprendisti approda ad un contratto a tempo indeterminato a seguito di trasformazione appunto di un contratto di apprendistato. E veniamo ora a quanto dice la riforma del lavoro in merito all'apprendistato. All'articolo 1, disposizioni generali, tipologie contrattuali e discipline in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore, si fa già riferimento all'apprendistato e al capo 1b si parla appunto di valorizzazione dell'apprendistato come modalità prevalente di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Si specifica anche più avanti nel testo che il contratto deve avere una durata minima di 6 mesi e sempre nell'articolo 1 al capo 16d si dice che un datore di lavoro può assumere un nuovo apprendista se ha assunto almeno il 50% degli apprendisti che lavoravano da lui già da 3 anni. Per chi volesse leggere il testo completo della riforma può scaricarlo sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, lavoro.gov.it. Sul sito della Regione Veneto, inoltre, si trova una sezione dedicata esclusivamente all'apprendistato che viene definito come contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato a facilitare l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la loro formazione in azienda. L'impresa si impegna infatti a fornire all'apprendista la formazione professionalizzante all'interno del rapporto di lavoro. Per i giovani, il vantaggio consiste nel poter acquisire una qualifica contrattuale o specifiche competenze professionali, oltre ad avere uno stipendio regolare e proporzionato all'esperienza lavorativa maturata. Per avere informazioni più dettagliate potete collegarvi al sito della Regione Veneto nella sezione Formazione Lavoro. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. E ora cerchiamo di capire più nel dettaglio che tipo di contratto è l'apprendistato con la nostra ospite Raffaella Toniolo. Ciao Raffaella, benvenuta a 12 minuti. Ciao, buongiorno a voi. Raffaella, all'inizio della puntata abbiamo dato una brevissima descrizione dell'apprendistato come un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro attraverso la loro formazione in azienda. Ci puoi dire più nel dettaglio che cos'è l'apprendistato? Sì, come hai ben premesso, l'apprendistato è una tipologia contrattuale che è stata appunto pensata per facilitare l'inserimento dei giovani e delle giovani nel mercato del lavoro e ha come finalità principale la loro formazione. Questa tipologia di contratto prevede infatti che l'azienda, che l'impresa si impegni, anzi diciamo che è obbligata, a fornire all'apprendista una formazione professionale adeguata alla qualifica che poi il giovane o la giovane acquisiranno all'interno del rapporto di lavoro. Raffaella, l'apprendistato ha un limite d'età, nel senso può essere attivato per giovani di qualsiasi età o c'è un limite? Ok, allora ci sono diverse tipologie di apprendistato e per ogni tipologia sussistono dei limiti d'età. Abbiamo ad esempio l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale che è per gli under 25 L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che è praticamente la forma contrattuale che le aziende ricercano più spesso, e va dai 18 ai 29 anni, 17 se il ragazzo e la ragazza hanno già una qualifica, e l'apprendistato di alta formazione e ricerca. Il testo unico, che è entrato in vigore dal 26 aprile di quest'anno, prevede che anche i lavori in mobilità potranno essere assunti con contratto di apprendistato. In questo caso non ci sono limiti d'età, quindi anche un lavoratore in mobilità ai fini di una riqualificazione professionale può essere assunto con contratto di apprendistato. Negli altri casi invece i limiti d'età sussistono. Ecco, rispetto proprio al contratto, cioè il contratto di apprendista, che differenze ha rispetto a un contratto, diciamo, normale? Cioè? Allora, il contratto di apprendistato, come dicevamo prima, prevede obbligatoriamente una formazione qualificante all'interno del rapporto di lavoro. Quindi da una parte il vantaggio per il giovane consiste che, come un contratto regolare, ha il suo stipendio. Contemporaneamente, per acquisire la qualifica o specifiche competenze professionali, l'azienda, la ditta, è obbligata a fornire una formazione adeguata. Ok, Raffaella, prima di continuare la nostra intervista sull'apprendistato, ci fermiamo per un breve intervallo musicale. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. Minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando di apprendistato insieme a Raffaella Toniolo, psicologa del lavoro, con cui abbiamo capito nella prima parte della puntata che cos'è esattamente il contratto di apprendistato. Raffaella, abbiamo parlato anche di formazione, ci puoi dire come funziona esattamente questo aspetto? Sì, allora diciamo innanzitutto che la formazione prevista dal contratto, dalle diverse tipologie di forma dell'apprendistato, è obbligatoria. L'apprendistato per la qualifica, l'apprendistato professionalizzante, l'apprendistato di alta formazione hanno una durata variabile per quanto riguarda la formazione ed è suddivisa, salvo deroghe o altre specifiche, in una formazione esterna di una determinata durata e di una formazione interna all'azienda a carico dell'azienda stessa. E questa è un po' la differenza tra il vecchio apprendistato, dove la formazione era erogata dalla regione. Quindi solamente esterna? Prima poteva essere cioè prima ci dicevi no, sì, solo esterna, mm-hmm. quindi della regione Veneto, mentre adesso c'è una parte appunto che viene erogata esternamente, ma una parte invece l'azienda ha l'obbligo di erogarla internamente, giusto? Sì, diciamo che prima poteva farla anche internamente l'azienda se aveva determinati requisiti, ma non era a carico dell'azienda stessa. Oggi col nuovo apprendistato si obbliga anche a livello di investimento e di spesa a fornirla all'interno dell'azienda stessa. Deve essere prevista anche una figura adeguata, un tutor che sia il punto di riferimento per l'apprendista. Ecco, infatti a proposito di questo, Raffaella, c'è la formazione quindi inerente proprio a poi alla figura professionale che l'apprendista va a ricoprire, giusto? Quindi esattamente. Una formazione quindi, tecnica, insomma. Esattamente, quindi le specifiche competenze professionali che serviranno per far acquisire la qualifica determinata dal contratto di assunzione. Ecco, rispetto alle tempistiche, la formazione può essere erogata durante tutto il periodo di contratto di apprendistato o magari ci sono degli obblighi appunto di scadenze, ecco, non so, una fase iniziale? Allora, prendiamo ad esempio l'attestato professionalizzante che dicevamo è quello più utilizzato dalle aziende. Esistono i due moduli, la formazione esterna e la formazione interna. La formazione esterna, ripeto, salvo deroghe e altre specifiche, è di 120 ore per l'intera durata del contratto. Cosa significa? Significa che il primo anno possono essere fatte le 40 ore, il secondo anno 40 ore, il terzo anno 40 ore o nel caso dell'artigianato le 40 ore finali possono essere spalmate fino ai 5 anni. Chiarissima. Di durata contrattuale. La formazione interna prevede circa 80 ore medie annue per la durata del contratto, che sia di 3 anni, 5 anni eccetera. E il primo anno deve essere fatta entro i 60 giorni dall'assunzione dell'apprendista. Ecco, quindi ci sono proprio delle scadenze. Scadenze tempistiche. Ecco, Raffaella, un'ultimissima domanda. Qual è la convenienza per le aziende appunto ad assumere un giovane in apprendistato? Allora, le aziende possono avere un forte vantaggio contributivo per quanto riguarda l'assunzione. Faccio un esempio, ad esempio pensando a una ditta artigiana che ha fino a 9 addetti, per il primo, il secondo e il terzo anno l'aliquota contributiva è pari allo 0%. Solo per gli artigiani che hanno poi il contratto che possono fare l'apprendistato fino al quinto anno, per 5 anni, scusate, il quarto e il quinto anno l'aliquota contributiva è pari al 10%. Ecco, quindi insomma, diciamo, sostanziosi, sì, certo. Sostanziosi sgravi, ecco, contributivi. Certo. Benissimo, Raffaella, io ti ringrazio per essere stata con noi a 12 minuti e per tutte le informazioni che ci hai dato. Grazie a voi e buon lavoro. 12 minuti. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Rimanendo in tema della nostra puntata, vi segnalo l'incontro che si terrà lunedì 26 novembre alle ore 18:30, organizzato dall'Informa Giovani di Mestre Venezia, dal titolo Come mettere un piede dentro l'apprendistato e lo stage. E vi segnalo anche l'incontro del 22 novembre, sempre a partire dalle ore 18:30, sul tema degli stage e tirocini all'estero. Per informazioni potete collegarvi al sito dell'Informa Giovani, veneziagiovane.info, o mandare un'email a informagiovani@comune.venezia.it. Oltre che sul sito della Regione Veneto, di cui vi avevo accennato all'inizio della puntata, potete trovare molte e dettagliate informazioni riguardanti l'apprendistato sul sito www.apprendiveneto.it, un portale regionale dedicato esclusivamente a questo tema, con sezioni specifiche sulla tipologia del contratto, la formazione, le opportunità per per le aziende e anche le sanzioni. Infine, vi segnalo la possibilità di ricevere informazioni in merito ai percorsi formativi per gli apprendisti presso il Centro per l'Impiego di Mestre in Viale Sansovino numero 3. Per informazioni sugli orari o per prendere appuntamento, potete consultare il sito portallelavoro.provincia.venezia.it. Siamo giunti in chiusura di questa puntata e prima di salutarvi, come ormai di consueto, brevissima anticipazione sulla prossima puntata che sarà dedicata al lavoro nel mondo della ristorazione e nello specifico alla figura professionale del cuoco. Per oggi è davvero tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.